Arci gestisce da ormai 4 anni lo spazio di Porta Pratello, che sono gli ex uffici del quartiere Porto Saragozza. Da 2 anni, questo è il secondo, Orchestra Senza Spine, in collaborazione con i partner, gestisce la programmazione artistica e la somministrazione all'interno della corte, all'interno della rassegna Porta Pratello Summer Ground. La rassegna si sviluppa dal 17 maggio, infatti siamo già partiti con un ottimo riscontro di pubblico, fino al 14 luglio, per poi dopo riprendere dal 4 settembre al 29 settembre. Le giornate di attività sono dal mercoledì alla domenica, con una programmazione molto varia e attenta ai bisogni di tutti. E i principali ospiti chi saranno? Allora, da questo punto di vista, i prossimi appuntamenti sono il 31 maggio con Scudetto, che è un progetto musicale elettropop di Alessandro Fiori e Giacomo Laser. Poi ci spostiamo sul 7-9 giugno, in cui ospitiamo il Festival Grisù, una rassegna cinematografica e letteraria di Lo Spazio Letterario. Da questo punto di vista, poi dopo ci spostiamo sul 14 giugno con La Bolognese Futura, nome d'arte che omaggia Lucio Dalla e una grande passione per la musica che coltiva sin da piccola. Questi sono i prossimi principali appuntamenti, ma lo spazio vive e si anima tutti i giorni, dal mercoledì alla domenica. Il mercoledì ospitando rassegne letterarie o cinematografiche, il giovedì con lo spazio libero, con il gioco libero e tornei di scacchi, mentre il venerdì e il sabato diamo spazio alla musica, ai DJ set, per concludere poi dopo la domenica con mercatini. E questa domenica ad esempio abbiamo Swing for Fun, che faranno un'esibizione di ballo libero. Ci sono delle novità rispetto allo scorso anno? Possiamo attendere delle sorprese? La principale novità di quest'anno sono i ragazzi e ragazze di Sfogliarina, che dal mercato ritrovato si spostano per quest'estate anche all'interno della corte di Porta Pratello, con un'offerta di pasta fresca e manicaretti tutte le sere in cui siamo aperti, completando così l'offerta di somministrazione che invece la cooperativa gestisce direttamente tramite il bar. Ricordiamo dove ci saranno queste attività? Sì, Porta Pratello Summer Ground si sviluppa nella corte di Porta Pratello in via Petralata 58, facilmente raggiungibile da via del Pratello, dietro al barazzo, e da via Sant'Isaia.